ad un poco stracco. Torna a chiovere schiove, rido solo con l'acqua. Mono cielo celeste, un'aria cupa e nera. Un'aria cupa e nera, marzo un po' di è nato poco strano. Now c'è il frutto di chiuso, aspetta esce solo. Dopo terreno infuso, sospiro ne viola. Cada ricca vuol chiudere, tiene ma cuore mio. Sta uscendo son chi, marzo lo sai se tu, e sta uscendo son chi. Cada riga vuo chiudere, tiene ma cuore mio. Marzo, tu sai se tu, e sta un cielo son chi. Marzo, tu vuo chiudere. È nato poco stracco.